Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, come sempre in onda, giovedì sera alle ore 21. Dunque un saluto da Annalisa, dallo studio di Bruxelles, in regia questa sera, Roberto Guidi e Claudio Saponara per la prima volta in regia. Benvenuto a Claudio, benvenuto a Giro di Boa. Dunque cari radioascoltatori, aspetto un cenno dalla regia giusto per verificare che il nostro ospite sia già in collegamento prima di introdurre il tema. Deborah, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Buonasera, Deborah Rezzoagli, la nostra ospite di questa sera. Dunque, questa sera Giro di Boa vuole mantenere viva l'attenzione sul caso di Rossella Urru, la cooperante italiana rappresentante del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, una ONG, e che la notte del 22 ottobre scorso nei campi Saharawi in Algeria è stata rapita insieme a due colleghi spagnoli. Le uniche notizie ufficiose attestano che Rossella, insieme appunto ai due colleghi spagnoli, sarebbe nelle mani di aderenti o presunti tali al gruppo scissionista appartenenti ad Al-Qaeda per il Maghreb islamico. Parliamo appunto questa sera di questo caso con Deborah Rezzoagli, che è coordinatrice operativa dei programmi in Africa per appunto questa ONG, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, collega di Rossella, che è proprio partì dallo stesso campo, dallo stesso campo profughi il giorno prima del rapimento. Dunque, buonasera Deborah e benvenuta a Giro di Boa. Buonasera a tutti. Ci senti bene? Sì, vi sento bene. Voi mi sentite? Ti sentiamo, ti sentiamo. Dunque, benvenuta Deborah, dunque, collega di Rossella, lavorate entrambe per questa ONG, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, che è stata costituita nel 1983. Il CISPA ha realizzato e realizza progetti di aiuto umanitario, riabilitazione e sviluppo in più di 30 paesi, in Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia e anche nell'Europa dell'Est. Deborah, quindi ti vorrei chiedere innanzitutto quale tipo di attività svolgete in Algeria, in questi campi, quindi quanto personale avete e appunto quale tipo di lavoro svolgete sul campo. Sì, dunque il CISP lavora nei campi ormai da oltre 20 anni e sostanzialmente lavoriamo in coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite e con la comunità europea principalmente, con il programma alimentare e anche con la cooperazione italiana e gli enti locali italiani, in particolare la regione Emilia-Romagna. Abbiamo realizzato e realizziamo una serie di progetti in vari settori. Diciamo, i più importanti riguardano quella che è un po' il miglioramento della gestione degli aiuti umanitari e della verifica della loro qualità, cioè degli aiuti che arrivano nei campi, in particolare quelli alimentari. Ma poi abbiamo anche altri progetti che riguardano, non so, il sostegno al sistema scolastico, alla prevenzione di malattie come l'epatite o progetti per la salute materno-infantile. Questo, diciamo, grosso modo i settori principali in cui il CISP lavora nei campi profughi. In questo momento abbiamo appunto in corso un progetto molto importante con l'UNHCR ed è un progetto che ha l'obiettivo proprio di migliorare la pianificazione e la distribuzione degli aiuti alimentari nei campi. Sappiamo che appunto i profughi Sahrawi nei campi dei rifugiati vivono esclusivamente o quantomeno per la maggior parte degli aiuti internazionali. E di conseguenza noi diciamo, offriamo un servizio di formazione al personale locale, in particolare ad un gruppo di donne costituito proprio per la verifica e la supervisione dell'intero ciclo degli aiuti, fino quindi a seguire proprio le famiglie che ricevono direttamente gli aiuti e le istituzioni Sahrawi che gestiscono la ricezione e la distribuzione degli aiuti alimentari. In particolare Interrompo una Deborah, una domanda. Quanti profughi ci sono più o meno in questo campo? il numero dei rifugiati Sahrawi ufficialmente le Nazioni Unite sostengono intorno ai 120 quanti 150.000 profughi, ma il numero preciso non lo sappiamo. Non lo sappiamo, sono dei campi, diciamo sono vari accampamenti in un unico territorio che l'Algeria appunto ha dato ai Sahrawi, dove appunto rifugiarsi, ed è costituito da cinque grandi accampamenti che possiamo considerare come delle città, a loro volta suddivise poi in quartieri, regioni, città e quartieri. Sono appunto cinque grandi accampamenti, uno in particolare più distante verso la Mauritania, gli altri più o meno vicini l'uno all'altro, insomma stiamo sempre parlando di un territorio desertico, quindi un territorio abbastanza vasto. Gli aiuti alimentari effettivamente con il sistema creato dalla Mezzaluna Rossa Sahrawi riesce a raggiungere tutti i componenti appunto delle famiglie Sahrawi che sono nei campi, e attraverso il nostro progetto cerchiamo di controllare la qualità e la quantità del cibo che arriva e che tipo di impatto questo ha con l'alimentazione, quindi anche sulla salute appunto dei beneficiari. Oltre a questo poi contribuiamo appunto sempre lavorando in stretta collaborazione con la Mezzaluna Rossa Sahrawi, che è il nostro partner diciamo locale principale, a la costruzione di magazzini per lo stoccaggio dei beni alimentari o la supervisione delle procedure poi di invio di attrezzature e beni dall'estero, anche dall'Algeria. Facciamo studi costantemente e quindi aggiorniamo la valutazione dei bisogni proprio delle famiglie rifugiati in termini sia sanitari che alimentari. E poi appunto la sede di Roma supporta il nostro staff locale per eventualmente identificare esperti e tecnici che possano dare una mano nei vari settori che quindi partono dall'Europa verso i campi. Oppure studi proprio sui bisogni e le condizioni socio-economiche nei campi Sahrawi. Mentre i personale avete sul campo? Scusa? Al momento quanto personale di CISP avete sul campo? Dunque, il personale CISP internazionale era Rossella, poi per il resto abbiamo tutto staff locale che è però staff che comunque appartiene alle istituzioni Sahrawi, quindi è staff diciamo che collabora volontariamente alle attività del CISP e di conseguenza abbiamo due persone addette alla sicurezza e alla logistica, e poi c'è in particolare la direzione della Mezzaluna Rossa Sahrawi che collabora con noi sulla supervisione di tutti i progetti. Il team di donne che monitorano la qualità e quindi la distribuzione degli aiuti, e poi ci sono appunto medici, ingegneri Sahrawi che supportano le nostre attività sulla base proprio dei progetti e dei bisogni che abbiamo nei progetti, quindi sostanzialmente è Rossella il nostro staff più due persone che si occupano di logistica e sicurezza sono staff CISP. Poi per il resto sono tutto personale delle istituzioni Sahrawi a disposizione sui progetti. Deborah, puoi chiarire per i nostri radioascoltatori un po' di più insomma, su questo popolo, i Sahrawi, e perché sono profughi in Algeria, quindi che cosa li ha spinti in Algeria e alla fuga? Giusto per mettere diciamo, la questione un po' in contesto. Sì, dunque la questione Sahrawi è molto, insomma, dura ormai da tanto tempo, insomma, dalla metà degli anni 70, in seguito alla decolonizzazione da parte della Spagna del Sahara occidentale, che ha dato questi territori al Marocco. E di conseguenza il popolo Sahrawi è stato costretto a fuggire dal proprio territorio, e dal 1990-91 stiamo aspettando appunto che si svolga il referendum per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi, che ancora purtroppo non è stato appunto realizzato. I Sahrawi si sono rifugiati in Algeria perché l'Algeria li ha ospitati e gli ha ceduto questa parte del territorio e vivono quindi lì ormai da 30 anni. Ed è a tutti gli effetti ancora oggi, nonostante i 30 anni, un campo di rifugiati, di conseguenza vivono sostanzialmente degli aiuti internazionali. Se il ciclo, il flusso di aiuti si interrompesse, sarebbe una crisi umanitaria insomma, elevata importanza. E, chiaro che nell'arco dei 30 anni ormai c'è un'intera generazione nata e cresciuta nei campi che non conosce il paese di origine, insomma il Sahara occidentale. E, di conseguenza ci si trova in un momento proprio di stasi sia da un punto di vista diplomatico per la risoluzione appunto di questa, della causa Sahrawi, e ci auguriamo appunto che al più presto si risolva. Nel frattempo noi insomma tentiamo di dare una mano a migliorare quanto più è possibile la vita di queste persone. Quindi, come dicevo in apertura di trasmissione, quindi l'intento della nostra intervista, quindi mantenere viva l'attenzione sul caso di Rossella, appunto dal 22 ottobre scorso nelle mani dei suoi rapitori. Deborah, da quanto tempo Rossella si trovava nel campo profughi, quindi che tipo di lavoro svolgeva? Dunque, Rossella lavora con noi, con il CISP, da ormai più di 2 anni e sostanzialmente lei è il nostro personale fisso nei campi Sahrawi. Fisso si intende che comunque con delle missioni ogni tot mesi in Italia, perché il contesto sicuramente non permette proprio lo stare troppo a lungo nei campi. Però Rossella conosce bene la situazione dei Sahrawi perché comunque ci lavorava già da prima in Emilia Romagna, in particolare con il comune di Ravenna. Di conseguenza lei è un'esperta del contesto, è un'esperta della storia proprio Sahrawi. Da un paio d'anni e poco più appunto lavora con noi nei campi e svolge il ruolo di coordinamento, cioè la nostra persona di coordinamento di tutti i progetti che abbiamo in corso. Coordinamento si intende appunto proprio la supervisione dell'avanzamento di tutte le attività dei progetti e la collaborazione stretta sia con i donatori, quindi con le agenzie internazionali, con altre ONG internazionali partner su vari progetti e ha anche accesso diretto alla popolazione. Di conseguenza Rossella è la persona che in qualche modo svolge anche parte di quegli studi di cui vi dicevo prima e delle valutazioni che facciamo costantemente sulle condizioni sociosanitarie della popolazione Sahrawi. Rossella tiene costantemente le relazioni operative appunto con la Mezzaluna Rossa Sahrawi e poi svolge i lavori richiesti appunto proprio da quelle che sono le procedure di contratto con le agenzie delle Nazioni Unite sui progetti, quindi rapporti descrittivi finanziari e riunioni di coordinamento con i vari rappresentanti locali proprio per il seguimento delle attività. Queste diciamo le attività principali. Poi con Roma e in particolare con me, che sono appunto la sponda nella sede centrale di Roma che dà supporto ai vari coordinamenti in Africa, Rossella era in costante collegamento con me, quasi quotidiano, per appunto eventuali missioni di esperti o programmazione di attività da fare insieme, e pianificare anche proprio la minima cosa la si fa insieme fondamentalmente. Da Roma poi nell'arco del tempo comunque vengono pianificate delle missioni sul campo di supporto diretto, quindi fisicamente andiamo nei paesi in cui ci troviamo, quindi anche nei campi Sahrawi, e come appunto dicevi io ero lì la settimana proprio prima che Ross venisse rapita. Sono partita appunto il venerdì notte e Ross è stata rapita il sabato notte. Deborah, da quello che insomma si può pensare, quali sono diciamo gli obiettivi dei rapitori, quali i motivi di questo rapimento? Richiedere un riscatto, motivazioni politiche? Comunque tu ci hai descritto il contesto politico e la situazione laggiù. Guarda, noi dunque, prima di tutto devo dire che noi non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Nei campi Sahrawi, appunto, ripeto, lavoriamo da più di 20 anni e non si è mai né avuta la percezione né tantomeno ci si aspettava che potesse succedere una cosa del genere. Di conseguenza ha preso tutti noi proprio alla sprovvista e non ancora oggi ci chiediamo come è stato possibile. Di conseguenza io ho un significato particolare, non so darlo appunto all'evento, e non ce l'aspettavamo e Rossella semplicemente la prima porta che sono riusciti ad aprire, insomma. Ma le motivazioni non le sappiamo, sicuramente ci sono insomma, le persone che si devono occupare del caso lo stanno facendo e loro sanno se c'è qualcosa che queste persone chiedono oppure no. Io non sono in grado purtroppo di rispondere a questa domanda. Quindi un'ultima domanda qui dallo studio. Quali quindi le iniziative per mantenere viva l'attenzione dei media, della gente, anche del governo sul caso di Rossella? Quali passi intrapresi per arrivare, speriamo il prima possibile, alla sua liberazione? Beh, iniziative spontanee ce ne sono state veramente in tutta Italia e sono state organizzate per lo più chiaramente in Sardegna, ma anche in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna appunto sente molto, è molto vicina a Rossella proprio perché parte del suo staff in passato, ma anche appunto a Milano, così come a Reggio Calabria. Le iniziative sono state molte, sono tutte appunto manifestazioni di solidarietà con Rossella e di appunto speranza che ritorni presto a casa. Da un punto di vista proprio operativo, cioè l'unità di crisi della Farnesina è in costante lavoro appunto per risolvere la questione. Noi confidiamo molto appunto nel lavoro che stanno facendo e sappiamo che appunto si lavora 24 ore su 24 su questo e su anche altri casi purtroppo che ci sono di italiani rapiti all'estero, e ci aspettiamo che ci dicano al più presto, appunto, che ci diano al più presto la buona notizia, ma cosa sta avvenendo veramente appunto lo sanno loro e probabilmente la famiglia che è in diretto contatto con l'unità di crisi della Farnesina. Certo, siamo purtroppo giunti in chiusura di questo collegamento. Deborah, innanzitutto grazie per aver contribuito alla trasmissione di questa sera. Insomma, speriamo di avere noi contribuito a mantenere un po' l'attenzione su questo caso. Ovviamente ci auguriamo la liberazione di Rossella quanto prima. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie mille e buona serata. A presto. Facciamo ora una pausa musicale. Viva la vita passata! Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera a Giro di Boa vogliamo mantenere viva l'attenzione sul caso di Rossella Urru, la cooperante italiana che lavora per il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli nei campi Sahrawi in Algeria, cooperante che è stata rapita il 22 ottobre scorso, pare da aderenti a un gruppo scissionista appartenente ad Al-Qaeda per il Maghreb islamico. Abbiamo intervistato prima una collega di Rossella che lavora per il CISP. In collegamento dovrebbe esserci ora Gaia Pellegrini Bettoli. Gaia, ci sei? Ci senti? Sì, ci sono. Buonasera. Gaia, come i nostri radioascoltatori si ricorderanno, è già stata nostra ospite in passato, ha origini sarde e per questo si sta attivando come può per sensibilizzare l'opinione pubblica sul caso con altri volontari del posto e per mantenere viva la questione di Rossella, il rapimento di Rossella Urru, che ricordiamo è originaria di Samugheo in provincia di Oristano. Gaia ha lavorato anche a Bruxelles come lobbista qui al Parlamento europeo. Gaia, ti volevo chiedere quali iniziative sono state intraprese in Sardegna, appunto di cui anche Rossella è originaria, per mantenere viva l'attenzione sul suo caso e per sensibilizzare opinione pubblica e la stampa. Le iniziative sono tante e devo dire che come sarda sono molto commossa e molto fiera di tutto quello che stiamo facendo, a partire dai suoi familiari che hanno mantenuto un profilo molto basso rimettendosi a quello che gli viene detto dall'unità di crisi della Farnesina, però per quanto riguarda i loro amici e il CISP e tutta la Sardegna, penso che ci sia molto movimento. C'è questo gruppo su Facebook che si chiama Liberate Rossella Urru, che incoraggio tutti gli ascoltatori ad andare a visitare, dove potete seguire giorno per giorno le varie iniziative. C'è stato il 26 gennaio dalla consigliera regionale Dunchedu insieme a Ura, Secchi, Cugusi, Salis e Cocco una mozione che richiede urgenti misure dalla regione Sardegna per intraprendere in diplomazia verso gli altri, verso gli organi internazionali, per far sì che questa cooperante, che Rossella, venga liberata. Ma al di là di questo ci sono soprattutto molte azioni da parte dei cittadini. Ci sarà questo venerdì una fiaccolata, sabato anche, e lo stesso domenica. C'è stato poi il 28 gennaio a Samogheo, il paese di origine di Rossella, in provincia di Oristano, un grande raduno di oltre 300 persone, quindi tutta la comunità è veramente stretta intorno a questa ragazza. E che il caso sia stato segnalato dall'eurodeputato dell'Italia dei Valori Gian Maria Uggias all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza della UE, Catherine Ashton. Gaia, tu hai lavorato a Bruxelles per lungo tempo, sia presso le istituzioni che per il settore privato. Come pensi che una campagna di sensibilizzazione a livello europeo possa aiutare? Penso che sia un equilibrio molto difficile, e lì mi riferisco al fatto che la Farnesina, in unità di crisi, sta negoziando evidentemente con i paesi. Diciamo che i miei riservi sono più che altro rispetto al potere della Ashton, che purtroppo, non godendo di grosso favore a livello europeo, mi domando quanto possa essere forte quando si trova a un tavolo di negoziazione straniero. Sono assolutamente, ma queste sono opinioni mie, assolutamente a favore di azioni europee, semplicemente perché si continui a parlare del caso, perché Rossella e i suoi due colleghi, Ainhoa e Henry, che sono stati presi con lei, non vengano dimenticati. Si potrebbe per esempio pensare a una mozione a livello europeo con gli eurodeputati sia spagnoli che ovviamente italiani, delle varie commissioni. Penso che ci siano molte azioni che si potrebbero intraprendere e che dovrebbero essere intraprese, ovviamente sempre nel rispetto del fatto che ci sono delle trattative in corso, la Farnesina sta trattando, ma anche ricordandosi che la situazione, come sappiamo tutti, con la primavera araba è molto complicata, anche in seguito alla fine del regime di Gheddafi. Una cosa di cui si inizia a parlare è il fatto che tanti dei militari che erano sotto il regime di Gheddafi sono Tuareg e sono ritornati in Mali adesso, ed è per questo anche adesso che c'è una nuova insorgenza di questi gruppi, che il governo del Mali dice siano delle cellule di Al-Qaeda, ma non siamo sicuri di questo, perché ci sono più di un gruppo che operano nella zona, che come sappiamo è diventata una zona di traffico d'armi e di droghe. Quindi ci sono purtroppo vari interessi che si accavallano ed è un equilibrio molto delicato, ma almeno a livello di stampa e di azioni penso che sia assolutamente necessario intraprendere tutto quello che si può. Gaia, grazie per il tuo contributo alla trasmissione di questa sera. Come Radio Alme Giro di Boa speriamo di avere contribuito a mantenere viva l'attenzione sul caso di Rossella Urro, e ovviamente ci auguriamo anche noi che venga al più presto liberata e che le iniziative in corso possano avere successo. Grazie Gaia, e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie a voi e speriamo di rivedere Rossella presto. Arrivederci da Cagliari. Cari radioascoltatori, continuiamo questa trasmissione, questa puntata di Giro di Boa, cambiando tema, però riprendendo un tema che, come vi ricorderete, abbiamo trattato più volte nei mesi scorsi, la crisi dell'eurozona. Il 13 gennaio scorso l'agenzia di rating Standard & Poor's ha declassato il debito di 9 paesi dell'Unione Europea, tra cui Francia, Italia, Spagna e Portogallo. La Francia ha perso la tripla A, come l'Austria, mentre Spagna e Italia sono scese alla tripla B. La Commissione europea aveva parlato di decisione aberrante. L'Italia ha scontato l'alto debito e il basso potenziale di crescita. Dunque, ne parliamo questa sera con Claudio Saponara, che è da questa sera uno dei registi e collaboratori di Giro di Boa. Innanzitutto, Claudio, benvenuto a Giro di Boa. Grazie mille e grazie a voi che mi accogliete, saluto tutti gli ascoltatori e l'equipe modulabile di Giro di Boa. Dunque, Claudio ha preparato qualche spunto di discussione per stasera, qualche chiarimento per voi radioascoltatori sulle agenzie di rating, che cosa sono, ma anche tante altre cose, quindi non mi resta che passargli la parola. Claudio. Sì, in effetti poi magari farò qualche domandina a Mauri, perché così vediamo se è preparato. ci sono delle parole che ascoltiamo ultimamente, che si sono ascoltate, chi lavora nella finanza e economia le conosce, ma l'uomo della strada si è sentito investire di rating, ranking, spread, adesso spread è diventato la parola passepartout, e Standard & Poor's. Standard non è lo standard liegi, perché qua in Belgio standard vuol dire quello, e si parla sempre di più di queste agenzie, le più famose sono Fitch, Moody's e Standard & Poor's, e ultimamente si è parlato molto di questa Standard & Poor's perché è quella che ci ha fatto perdere, che ci ha fatto andare in Italia in Serie B, la Francia è stata degradata della A, e anche Spagna e anche il Belgio hanno perso delle quotazioni. Chiediamo a Mauri perché Standard & Poor's. Non ho introdotto Maurizio, i nostri ascoltatori. Maurizio Molinari, come sapete, curatore di Onde Corte. Buonasera Maurizio. Buonasera, ciao a tutti. Guarda, io rispondo un po' come l'uomo della strada. Ovvio. Ma lo standard mi fa pensare appunto a una standardizzazione, a cercare di creare delle norme per definire, per poter definire, diciamo, il, per esempio in questo caso il debito dei paesi, e però pur non può non far pensare all'impoverimento, quindi è addirittura paradossale, quasi ironico in questo momento. Per uno che non sa da dove viene il nome, ecco, sicuramente fa pensare a, so, lo standard dei poveri, per esempio. Infatti, oppure lo stato di ricchezza, all'incontrario, in realtà pur non c'entra niente con povertà, perché viene da un libro, da un documento che è la storia finanziaria delle ferrovie dei canali degli Stati Uniti, che fu pubblicato da Henry Warren Poor nel 1860, quindi Poor è un cognome. Questo documento conteneva un resoconto delle informazioni operative e finanziarie di tutte le compagnie ferroviarie degli Stati Uniti, e cercava quindi che queste, tutte queste aziende fossero obbligate a rendere pubblici i loro bilanci. Il figlio di questo Henry Warren Poor poi ha creato nel 1941 questa agenzia, che adesso ha sede a New York. Quindi anche a me ha stupito, quando ho fatto questa ricerca, vedere questa cosa che non c'entra niente con povertà. Che fra parentesi c'è questa assonanza con Herman Van Rompuy, che non so se... infatti, non è molto... Allora, quindi, scoperto questo, parliamo un po' di queste agenzie, che sono molto... Olli Rehn, che hai citato indirettamente, commissario europeo, ha criticato Standard & Poor's, dicendo che questa decisione è inconsistente. Si parla soprattutto di rating a breve termine, e noi stiamo parlando dei sovereign rating, cioè dei rating che riguardano le nazioni, perché queste società danno per esempio rating anche alle multinazionali, alle società quotate in borsa. Per esempio la Generali è stata recentemente degradata da Standard & Poor's. Parliamo adesso di chi sono le poi capiremo cosa vuol dire, ma chi sono le nazioni che hanno mantenuto le A. Sono i 14 eletti, li chiamano. Brevemente abbiamo due stati indipendenti molto piccoli, che sono Liechtenstein e Lussemburgo. C'è Hong Kong, poi c'è Australia, Canada, Danimarca, Germania, Olanda, Norvegia, Singapore, che è l'unico del sud-est asiatico che ha la tripla A, Svezia, Svizzera, Finlandia e Gran Bretagna. L'Italia, abbiamo detto che è andata in Serie B, e quindi si è, la prima cosa che si è vista sui blog, sui giornali, è Italia in Serie B, mentre in Francia si sono usati due simboli molto visuali. Liberation ha fatto una prima pagina per me stratosferica, intitolando grandissimo Sarkozy senza la A, e quando l'ho vista è una grande trovata. Un'altra cosa visuale che si è usata in Francia è una Parigi senza Tour Eiffel, perché la Seguari, la Tour Eiffel è a forma di A, e quindi è come se Parigi abbia perso, avesse perso questa. Perché la Francia si trova in difficoltà per la perdita di questa tripla A? Perché siamo a meno di 3 mesi dalle elezioni, quindi è un colpo duro per il presidente attuale, e perché sappiamo che sono stati molto criticati i due capi o traini dell'Europa, la Merkel e Sarkozy, vanno a braccetto e cercano di tirare un po' l'Europa dalla loro parte. Adesso però Sarkozy ha perso, quindi non parleremo più di Merkel. Non parliamo più di Merkel, perché adesso la Merkel può guardare dall'alto verso il basso, vero che non è molto alto il nostro, e lui si trova molto in difficoltà, perché adesso è proprio la Germania che teoricamente potrebbe dominare da sola. Mauri, uomo della strada, cosa vuol dire A-A-A-B-B-B-C-C-C? Era proprio la domanda che ti stavo facendo e ti volevo proprio chiedere questo, appunto, puoi spiegare perché... Cioè, da una tripla A si passa direttamente a una tripla B. Non so, uno potrebbe immaginare da una tripla A passare a un AAB, per esempio, e invece no. Ma in realtà si può passare. La Spagna è stata gradata di 2 gradini, quindi si può passare teoricamente a un'altra lettera. Innanzitutto bisogna dire che c'è molta polemica, perché per esempio noi siamo ancora in Serie A fra virgolette per Fitch, mentre Standard & Poor's ci ha già messo nella B. Quindi le valutazioni, che sono quantitative e qualitative, sono molto complicate, variano da agenzia a agenzia. L'agenzia che è reputata più severa è, adesso trovo perché mi ero stampato, non mi ricordo come si chiama, è una cinese, e si chiama Dagong, e ci ha messo già in BBB+, cioè siamo proprio da tempo, e ci vuole degradare ancora. Cosa vuol dire? Rapidamente, AAA sono le compagnie di migliore qualità, in questo caso le compagnie o le nazioni il cui debito è, in cui praticamente non c'è problema di solvabilità di debito. Poi si passa da AA+, AA, A+, A, quando si arriva a B siamo in compagnie o società, nazioni di classe media, che sono soddisfacenti al momento, e via via fino a arrivare a delle società che sono con la C, che sono quindi quasi in bancarotta. Il Portogallo adesso è stato qualificato come i junk bond, quindi i bond spazzatura. La Grecia è molto in difficoltà, si è parlato molto della Grecia, perché il 14 marzo, che è una data quindi molto importante da segnarsi per l'Europa, dovrà rimborsare, mi ero segnato anche esattamente la cifra, ma dovrà rimborsare una quantità molto importante, sì, di 14,4 bilioni, cioè miliardi di euro di bond. E se non riesce a trovare il modo di farsi riprestare i soldi o di cercare di rimandare la scadenza, teoricamente si può parlare di fallimento della Grecia, perché non è solvabile, come si dice? Solvibile. Questo è quanto. Flavio, avevi preparato anche una curiosità per i nostri radioascoltatori. Sì, ho preparato una curiosità perché l'uomo della strada, per te anche una persona può essere degradata? A parte, perché c'è un caso di una persona recentemente che è stata degradata. Mauri. Ma non lo so, se una persona addirittura che è stata degradata. Se devo pensare a una persona, la prima persona che mi viene in mente così è Murdoch. E Murdoch, no. O Schettino, no. È l'ex CEO del Royal Bank of Scotland, che era stato nominato da Tony Blair nel 2004 Sir. Sappiamo che Sir è un titolo molto importante, McCartney o tantissime persone sono Sir, quindi come cavaliere della Repubblica da noi, e raramente si può togliere, di solito è per la vita. Però questo personaggio è uno dei responsabili del... quasi la bancarotta della Bank of Scotland, che è stata salvata poi dall'UK, recentemente quindi gli è stato tolto questo titolo. Quindi stai attento, se un giorno ti fanno Sir Mauri non è per Si può sempre. sempre perdere. Sì. Un'interessante curiosità, quindi si degradano non soltanto i paesi, ma anche le persone. Claudio, grazie per questo interessante contributo. Abbiamo scoperto insieme un po' di cose. Sicuramente i nostri radioascoltatori avranno apprezzato e si saranno divertiti. Quindi un benvenuto nuovamente a Giro di Boa nel team e nella regia. A proposito di regia, passiamo ora la parola al nostro regista di questa sera, Roberto Guidi, per una rassegna sportiva su alcuni avvenimenti sportivi degli ultimi giorni, campionato di calcio, finale degli Open di tennis in Australia, pattinaggio. Sì. Roberto, hai credo 3 minuti, 3 o 4 minuti prima Sì, della sarò chiusura. molto molto rapido, Annalisa. L'ultima puntata che ci eravamo occupati di campionato di calcio con Maurizio, avevamo commentato che il campionato si era tinto di bianconero perché la Juventus e l'Udinese erano in testa in quel momento. Il girone di andata si è concluso con la Juventus in testa, imbattuta, cosa che è un unicum in Europa in questo momento. Il Milan è diciamo, la squadra che ha recuperato negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, molta strada e ormai si sta profilando in questo momento una sfida abbastanza classica nel campionato italiano, ma che non si vedeva ormai da qualche anno, visto soprattutto le peripezie che la Juventus, la vecchia signora, aveva avuto. Da notare anche che l'Inter, che era stata in difficoltà nella prima parte del campionato, anche lei è rientrata abbondantemente nella lotta per i posti che contano, e naturalmente questo lo devo anche a Claudio perché, essendo lui interista, non potevo esimermi dal rendere omaggio e diciamo dare un benvenuto amichevole nel nostro team. Vedo colori nerazzurri in studio. Sì, esatto, anch'io ho un po' di terizia, ma non importa, insomma, passerà. Un'ultima battuta da parte della conduttrice, se mi consentite, finalmente un po' di par condicio in Sì, studio. non necessaria, ma alla fin fine va bene così, non è così Evidentemente. grave. Per Roberto, quanto riguarda gli sottolineerai i altri. risultati però dell'ultima giornata, Ma che l'ultima giornata che tra l'altro si sta giocando in questo momento con tra l'altro un ritorno molto importante perché il Novara sta giocando in casa adesso contro il Chievo e nella panchina del Novara è tornato a sedersi Emiliano Mondonico dopo aver vinto la lotta più importante che era quella contro la malattia, contro il cancro che l'ha tenuto lontano dai campi per parecchi mesi. L'ultima giornata, appunto, la Lazio ha battuto il Milan per 2-0, l'Inter ha pareggiato in casa un rocambolesco 4-4 con il Palermo e la Juventus che non ha potuto giocare per un discorso puramente legato alle condizioni atmosferiche, potrebbe avere la chance di prendere ancora di più il volo in campionato. Lasciando da parte adesso il calcio, vorrei effettivamente fare un punto veloce su due avvenimenti importantissimi della settimana scorsa. Innanzitutto, gli Australian Open di tennis. Abbiamo avuto un'edizione degli Australian Open assolutamente stratosferica, soprattutto per quanto riguarda la finale maschile che si è giocata domenica, ed è stata la finale storicamente più lunga degli Slam, giocata tra Djokovic e Nadal, durata 5 ore e 53. Al termine delle quali Djokovic è riuscito per il terzo anno consecutivo a vincere gli Australian Open. Australian Open che sono stati anche per il tennis italiano soddisfacenti, grazie non alle due regine già celebrate, Schiavone e Pennetta, ma grazie a Sara Errani che è riuscita a raggiungere i quarti di finale dello Slam per la prima volta. Oltre a questo, il sabato è stato un sabato rosa, possiamo chiamarlo così, perché ci sono state, come Annalisa accennava, delle prestazioni eclatanti delle donne italiane. Pattinaggio sia artistico con Carolina Kostner che si è confermata campionessa d'Europa e anche con uno sport minore, sempre di pattinaggio, la velocità nelle piccole, diciamo, non nelle grandi piste, ma diciamo nei piccoli palazzetti, che è lo short track, dove un'altra italiana, Arianna Fontana, si è laureata campionessa europea. Non dimentichiamo inoltre che a completare il sabato vincente delle donne italiane c'è stato il trionfo del Sette Rosa ai campionati europei di pallanuoto che si sono svolti in Olanda. e questo è un segnale molto importante, perché le azzurre sono state capaci di battere delle formazioni molto quotate, soprattutto la Grecia in finale. E questo è tutto per l'attualità sportiva. Grazie Roberto per il tuo contributo, non mi resta a questo punto che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori per la prossima puntata di Giro di Boa, che sarà giovedì prossimo. A risentirci e buona serata.